saresti, ma senza che il protagonista sia tu. Ti sei piegato senza battere ciglio e non contento ti sei spinto più in là ed hai trasmesso da tuo nonno a tuo figlio che non è mai esistita la libertà. Dall'illusione all'inferno il passo è lungo, ma è un attimo e la strada è più comoda. Ci sono schiere di predicatori che ammiccano per toglierti l'anima. Chi sei? Chi sei? Più ci fai, più ci sei. È questione di costanza, lo sai. Chiudai qui, tra di noi, vedrai che ti bacerà. Fragile, ma...